Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a questa seconda puntata di Smart City. Quando pensiamo a come ridurre i consumi energetici, ma anche l'inquinamento nelle nostre città, di solito ci vengono in mente due cose: le automobili e le caldaie. Ma c'è anche una terza voce da aggiungere a questo breve elenco. Parliamo dei fornelli a gas che in quasi tutte le case degli italiani, l'Italia è uno dei paesi più metanizzati al mondo, utilizziamo in cucina. Rappresentano naturalmente solo una piccola frazione dei consumi energetici e anche delle emissioni riconducibili, diciamo così, alla famiglia italiana media. Però queste emissioni vanno moltiplicate molti milioni di volte. Oggi allora vogliamo parlarvi di un nuovo tipo di bruciatori ad alta efficienza. Il bruciatore è il cuore del fornello, che sono stati sviluppati nello specifico da Sabaf S.p.A., una società di Brescia con vari stabilimenti però un po' in giro per il mondo, che è specializzata nella produzione di componenti per elettrodomestici e in particolare proprio in componenti per la cottura a gas. Componenti che a questo punto promettono appunto un bel balzo in avanti. Ne parliamo con l'amministratore delegato di Sabaf, Angelo Bettinzoli. Buonasera Bettinzoli. Buonasera a tutti. Allora senta, ci dica subito qual è il segreto di questi fornelli, anche perché le dico è un po' sorprendente, uno pensa che sui fornelli a gas non ci sia più niente da inventare, no? Invece questi sono più efficienti. Come avete raggiunto questo risultato? Ecco, innanzitutto le cose più semplici sono le più difficili da innovare. Eh sì, appunto. Però attraverso uno studio molto raffinato sulla forma del bruciatore ci ha permesso di ottenere una minor turbolenza nella miscelazione dell'aria a gas e quindi conservazione dell'energia cinetica da una parte, dall'altro l'utilizzo di un coperchio di spessore molto sottile che cede la temperatura alla pentola che vogliamo utilizzare al di sopra del fuoco. Quindi in pratica ci sono due fattori copresenti. Da un lato avete migliorato con degli accorgimenti che chiamano in causa la fluidodinamica dei gas, una roba complicatissima, non ci vogliamo neanche entrare, che determinano una combustione migliore, e dall'altra c'è una capacità maggiore di trasferire calore alla pentola, proprio perché una parte del calore normalmente se ne va in giro, scalda la cucina ma non la pentola di pasta. Voi avete migliorato questi due elementi e quindi quanto è cresciuta l'efficienza? Dalle 52% di efficienza energetica, che è richiesto anche dalla più recente normativa, sì, siamo passati al 69%, quindi siamo oltre un miglioramento di oltre il 30% rispetto allo standard europeo. Quasi del 40%, che tra l'altro a proposito di standard europeo vi porta verso un futuro standard, vero? Sì. Per quel che riguarda il compito di Sabaf, ha già raggiunto con 10 anni in anticipo l'obiettivo di queste direttive comunitarie. Va bene, senta, questo aumento di efficienza tradotto in, per esempio, in risparmio economico per la famiglia media italiana, in quanto si concretizza? Beh, direi che è una cosa simbolica perché vengono risparmiati solo 96 litri al giorno nell'impiego di una cucina a di quattro gas. Fuochi in una famiglia di 3 persone. D'accordo. Però si risparmia anche il tempo, perché il tempo di cottura diventa minore. Certo, e poi si risparmiano probabilmente anche un po' di emissioni inquinanti, perché una combustione migliore di solito vuol dire minori emissioni inquinanti, e noi quasi sempre siamo molto preoccupati di quello che respiriamo per le strade, ma non siamo per nulla preoccupati di quello che respiriamo in casa nostra, dove nessuno va a fare dei controlli, non c'è l'ASL che fa le misurazioni, e se le facesse temo che scoprirebbe spesso situazioni non tanto migliori, insomma, di quelle che ci sono sulle strade, senza fare allarmismo. Quindi, insomma, lei dice, sulla singola famiglia non è che c'è un grande risparmio economico. No. C'è un risparmio, c'è un miglioramento, ma non è che ti cambia la vita. Però che cosa succede se noi moltiplichiamo per tanti milioni di famiglie questo incremento di efficienza? La produzione potenziale di Sabaf, di quei bruciatori, sono 23 milioni all'anno. Ecco, diciamo che vengono venduti tutti ad alta efficienza. Ecco, ipotesi che per il momento non è realtà, perché ne vendiamo solo una parte. Noi assistiremo a un 200 milioni di metri cubi di gas metano di risparmio all'anno. All'anno, ogni 23 milioni di fornelli si risparmiano 200 milioni di metri cubi. Quindi il secondo anno diventano 400, il terzo anno 600 e così via. E questo con impatto anche sull'ambiente, direi in maniera sensibile. Senta, per avere un'idea, una città come Milano, appunto, ha un fabbisogno intorno ai 185-190 milioni di metri cubi anno per il gas destinato alla cottura, quindi una città come Milano verrebbe affrancata sia dalle emissioni che dal costo del gas metano utilizzando questi bruciatori. Senta, invece c'è una tendenza a fare uso dell'elettricità per cuocere, è un'altra direzione di sviluppo, immagino che a voi non piaccia tanto però. No, noi siamo obiettivi, io credo che l'energia elettrica sia una forma di energia nobile che debba essere usata per la forza motrice e non deve essere svilita, trasformata in calore, anche perché mediamente abbiamo in termini di energia primaria un abbattimento di 2,3 volte il valore iniziale. Cioè spieghiamo bene, cioè siccome l'energia elettrica mediamente viene prodotta comunque con gas, se noi bruciamo direttamente il gas o col petrolio, se noi bruciamo direttamente il gas per produrre calore, risparmiamo energia rispetto a fare tante trasformazioni, trasformare il gas in energia elettrica, trasmetterla. Oltre il 40%, non supera il 40% il rendimento medio con le centrali più aggiornate. Poi abbiamo il trasferimento in linea e lì. Beh, diciamo che le centrali più aggiornate, mi permetta, ma arrivano anche al 60. Le migliori centrali a gas. La media non è quella, siamo d'accordo. La media è 40, è generosa, sì. Facendo la media nel nostro paese. In Italia 40, sì. Ecco. Questo naturalmente, perché questo va detto per correttezza, se questa energia elettrica è veramente prodotta coi fossili. Se fosse prodotta con le rinnovabili sarebbe un discorso diverso dal punto di vista dei conti energetici. Grazie Angelo Bettinzoli. Arrivederci. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani. Buona serata.